Intendiamo con questa serie di quattro video aprire la nostra realtà metropolitana e bolognese il dibattito pubblico a cui ci chiama l'Europa e che è stato annunciato il 9 maggio dal Presidente del Parlamento europeo Sassoli. L'Europa è impegnata a coinvolgere il maggior numero possibile di cittadine, di cittadini e di associazioni per raccogliere idee sul futuro dell'Europa. È un avvenimento importante al quale noi vogliamo assolutamente partecipare. Già abbiamo nel corso di questi anni assunto molte iniziative concrete nel campo della promozione delle pari opportunità e delle politiche di genere. Vogliamo aprire ufficialmente questo nostro contributo richiamando il tanto lavoro che è stato fatto fino ad oggi e cosa ci ripromettiamo di fare nel futuro. Questi video sono video quindi informativi che riguardano quattro temi molto importanti, ma sono anche video che informano, hanno l'ambizione, con esempi, casi concreti, di spiegare quello che concretamente in questi anni si è fatto e sulla base di questo cosa è possibile ancora immaginare. Per cui questa iniziativa sarà un contributo per la strategia nazionale di parità, per l'uso adeguato dal nostro punto di vista, ovviamente, delle risorse del Recovery Fund e di Next Generation EU, ma lo sarà sulla base di una cosa molto importante che ci tengo a dirvi. Noi facciamo parlare i fatti. Qui non abbiamo fatto solo convegni per dire quanto è importante il valore delle pari opportunità. Si è agito concretamente nella realtà per cercare di modificare una condizione che vede discriminate le donne sia nel lavoro, sia negli studi, sia nelle carriere, che per quanto riguarda il welfare aziendale e il welfare delle istituzioni. Per cui da martedì 18 maggio inizieremo a divulgare su Facebook e YouTube questi video. Il primo riguarderà il tema organizzazioni resilienti, questa parola che va di moda. Quindi io vorrei davvero invitare tutti e tutte a seguire il più possibile queste iniziative, perché sono una base di informazione e anche di spunti importanti. Sono una base anche per eventuali critiche. Quello che è importante è comprendere che questa procedura di partecipazione aperta dall'Unione Europea, questo dibattito pubblico, ci dà l'occasione per fare sentire la nostra opinione, per avanzare le nostre proposte. Noi come città metropolitana di Bologna, come comune di Bologna, siamo molto contenti che nei fondi del recovery ci siano 7 miliardi e mezzo per quanto riguarda i nidi, le scuole dell'infanzia e gli incentivi al lavoro imprenditoriale delle donne. Continuiamo a essere molto attenti al fatto che queste risorse sono ancora insufficienti, perché l'obiettivo di garantire il 33% europeo di copertura dei nidi è un obiettivo che ha bisogno, secondo noi, di maggiori fondi, a partire dal fatto che non c'è solo il tema di costruire nidi, poi ci vuole anche il personale per gestirlo e da assumere, anche perché riteniamo che solo 400 milioni per come sostegno alle iniziative imprenditoriali delle donne siano davvero pochi. Stiamo parlando su oltre 200 miliardi di un investimento del 5% destinato alla promozione delle pari opportunità e del sostegno al lavoro delle donne. Quindi c'è molto da fare, noi lo stiamo facendo parlando con i fatti e non con le parole, e chiedo a tutte e a tutti di comprendere che questo dibattito sarà molto importante, perché si discuterà di dove portare l'Europa nel nostro futuro, a partire di come vogliamo spendere l'occasione di queste importanti risorse.